America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Cominciamo subito con un paio di notizie. Sometimes when we talk about trade, we think of Nike or we think of Boeing or we think of GE, we think about these big. Barack Obama che parla di commercio, è una giornata chiave oggi per il TTP, per l'accordo per la liberalizzazione del commercio con l'Asia. La Camera dovrà prendere in considerazione il progetto di legge già passato dal Senato e devo dire la situazione non è molto allegra per la Casa Bianca, perché ci sono, pensate, soltanto 28 democratici che sono disposti a votare a favore di questo piano. La sostanza è che nella giornata di oggi ci sarà un dibattito che deciderà se si andrà avanti o meno in questo progetto di grande liberalizzazione commerciale che molti ritengono fondamentale per la crescita. E naturalmente se andrà avanti significa che si spiana la strada anche per l'accordo transatlantico. Vedremo, lo seguiremo, vi daremo la settimana prossima l'analisi sull'esito di questo voto. Due notizie rapide. Twitter, un cambiamento al vertice, c'è stato Dick Costolo, che era l'amministratore delegato, che ha dovuto lasciare, ha fatto qualche pasticcio. Jack Dorsey, uno dei cofondatori, entra al suo posto. Altra notizia, sempre nel settore, diciamo, dell'infocom, del grande settore dei media, è che Rupert Murdoch ha deciso, sarà il figlio James Murdoch a guidare il grande gruppo News Corp, che opera un po' dappertutto, non solo su internet, ma soprattutto nella televisione, nel cinema, nei giornali, controlla giornali di mezzo mondo. Ma oggi vorrei tornare su un tema di cui abbiamo parlato negli ultimi giorni, e cioè il ruolo di Putin con l'America, e cioè il ruolo di Putin nei confronti dell'America, nei confronti dell'Occidente. E ho con me ai microfoni di America 24 Paolo Valentino, inviato del Corriere della Sera, che è stato anche corrispondente dagli Stati Uniti, un vecchio amico con cui spesso non ci troviamo d'accordo, soprattutto quando dobbiamo discutere questioni che riguardano il ruolo di Putin. Paolo ha fatto un grande scoop, ha intervistato proprio Vladimir Putin. Buongiorno Paolo. Buongiorno Mario. Beh, intanto complimenti per l'intervista, perché l'intervista della settimana scorsa è stato un grande. Ma scusa, raccontami, ma com'era essere nella stanza con Putin? Poi tu, naturalmente, dovendo sempre, come dire, essere disponibile, ti sei persino messo le calze rosse, perché di questo Mario, si è parlato. Scusami, tu sai che io le calze rosse le indosso sempre, in qualsiasi circostanza, perché io posseggo solo calze rosse, quindi l'obiezione non funziona, restituisco al mittente. Ma Putin le ha apprezzate, gli sono piaciute? Cioè, parliamo al di là della grande politica, parliamo anche dell'umore in questa stanza del Cremlino, dove poi si decide. Devo dirti con grande sincerità che eravamo sfiniti, io e il direttore Fontana, perché abbiamo aspettato per 4 ore e mezza. Impegni di governo, ovviamente quando è arrivato si è scusato, e questo forse ha contribuito al fatto che è rimasto con noi quasi 2 ore per compensare probabilmente il senso di colpa con cui appunto Scusa Paolo, io non so se Putin sia uno che ha i sensi di colpa, però questa sarebbe una notizia se ce la dai. Perché non so se ha sensi di colpa, però quello che è vero è che è rimasto 2 ore con noi. Certo, no, questa è stata una cosa, devo dire, unica, perché poi e in genere non erano programmate, perché loro ci avevano messo, diciamo, nel protocollo presidenziale, loro ci avevano detto che il presidente si poteva trattenere con noi per un'ora. Ecco, veniamo un po' alla sostanza, perché in questi giorni abbiamo parlato molto, Putin è stato a Milano, si è parlato di Ucraina, l'Italia per alcuni è un po' l'anello debole di questa catena. Io non credo che lo sia, non credo che lo sia, perché ma io su questo sono d'accordo con te, non credo che lo sia, e in fondo se vediamo le reazioni della Casa Bianca, credo che in un certo senso si siano sentiti rassicurati dalle cose dette da Renzi durante la visita a Milano, nel senso che Renzi ha detto molto chiaramente: noi, per noi le sanzioni rimangono fin quando non c'è una piena applicazione degli accordi di Minsk, e quindi l'Italia non scarta, diciamo, rispetto alla solidarietà occidentale, però ovviamente non fa neppure mistero che l'Italia è uno di quei paesi che intendono tenere aperto un canale di dialogo con Mosca. Però su questo punto non credo che ci sia tanto da stupirsi, visto che il canale di dialogo con Mosca lo tiene aperto anche John Kerry, che, come tu sai, 2 settimane fa è stato a Sochi, dove hanno parlato di tutti quegli argomenti dove Stati Uniti e Russia continuano a collaborare. Ecco Paolo, scusa, ma quello che dici secondo me è molto importante. Perché? Perché qui si cerca, credo, forse anche, non so, una certa stampa cerca sempre di trovare il contraddittorio, ma di creare chi è da una parte, chi è dall'altra, chi è contro. Io ho avuto l'impressione, anche per quello che ho seguito negli ultimi termini del contesto multilaterale, che l'Europa sia molto unita su questo fronte, che c'è un problema specifico che riguarda l'Ucraina, che ci sono gli accordi di Minsk. Entrambi, sia l'Occidente che Mosca, dicono dobbiamo rispettare gli accordi di Minsk, c'è un processo che arriverà alla fine dell'anno. Ecco, io credo che forse si esageri un po' in questa differenza marcata. Ecco, è chiaro che l'America poi accusa la Russia di tenere artiglieria pesante, di mandare i suoi uomini, e la Russia accusa l'Ucraina di non procedere con le forme costituzionali. Però cerchiamo di avere una prospettiva positiva, cioè quali sono i punti reali di contatto su cui si potrà arrivare a una soluzione? Credi che ci si arriverà entro la fine dell'anno? Beh, i punti di contatto, a parte, abbiamo detto, Minsk, sul quale fanno professione di fede sia gli europei che gli americani che i russi. C'è poi il grande punto di contatto degli altri dossier su cui si collabora con gli Stati Uniti. Io ricordo la visita di John Kerry a Sochi, dove hanno parlato per 4 ore di tutti i dossier, dall'ISIS all'Iran, alle armi di distruzione di massa, dove Russia e Stati Uniti collaborano. E ricordo che nell'intervista al Corriere della Sera Putin ha detto chiaramente: su questi temi noi con gli Stati Uniti ci consideriamo alleati. Quindi un canale di dialogo e una prospettiva concreta di collaborazione, questo è il vero punto di contatto, esiste. Ci sarebbero meglio altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili e resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, ho sempre con me Paolo Valentino ai microfoni America 24. Paolo, stavo pensando, ma ho bisogno naturalmente della tua approvazione, visto che abbiamo parlato della grande Russia e così di questo grande romanticismo con profonde radici, cosa dici? Il tema di Lara, Dr. Zhivago? Beh, credo che si imponga, è molto hollywoodiano, però comunque ci riconsegna l'anima. Ma sempre una critica, troppo hollywoodiano, è bellissimo il tema di Lara, Dr. Zhivago. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going!